come sopravvivere quando tutto va all'inverso, come sopravvivere, ricordo ancora impresso, come sopravvivere se tutto ciò che ho perso ha sommerso la ragione di chi non ha più senso. Cos'è che ho perso accatastate una sull'altra nella stanza della psiche? Forse troppo stanca e sottoposta a fatiche, quanto stress, schiacciata da pensieri del tipo come fare a sopravvivere adesso, adesso che si vede quanto è vero, quanto è fatto e avverso. Qui è la strapassaggio che attraverso, sì, scorge a malapena il bagliore di speranza tra le tenebre dell'incubo peggiore. Come sopravvivere in un mondo che ci toglie tutto, come costruisco qualcosa se già distrutto in partenza, se la panire domina le. E il prezzo della vita è troppo caro, la mia schiena spezza inutilmente. Per quanto io lavori non ottengo niente, ogni passo fatto sembra inconsistente, rende pazzi. Ho visto sgretolarsi una famiglia per la debolezza di una donna, ma la forza di una figlia mi ha detto non mollare Woody. E io mi batto ancora con l'onda a cui non credo, disilludo chi mi vuole piegare per poi rendermi uguale, facilmente governabile. Ladri di anime. Come sopravvivere quando tutto fa all'inverso, come sopravvivere, ricordi ancora impresso, come sopravvivere se tutto ciò che ho perso ha sommerso la ragione di chi non ha più senso. Come sopravvivere quando tutto fa all'inverso, come sopravvivere, ricordi ancora impresso, come sopravvivere se tutto ciò che ho perso ha sommerso la ragione di chi non ha più senso. Così per ogni cosa persa tengo un po' più stretto quello che mi resta. Accade spesso che faccio una scommessa con me stesso, come una promessa, e anche se caro il prezzo la mantengo. Quando combatto non mi arrendo, com'è vero che il ricordo della gioia perduta mi sta bruciando dentro, impresso a fuoco come un marchio che non può cicatrizzarsi se tutto va all'inverso. E ancora oggi sopravvivo in un presente forgiato da chi ha perso la ragione di ambiguo, se detta regole ma infrange i principi morali, nella sua logica ottusa in realtà. Chi si gani fanno tutto per un tornaconto e vivono menzogne assurde convincendo il mondo, ma il peso che mi porto, la rabbia che mi morde, i giorni di sconforto mi hanno reso forte, non mi scordo di come sopravvivere quando tutto va all'inverso, come sopravvivere, ricordi ancora impresso, come sopravvivere se tutto ciò che ho perso ha sommerso la ragione di chi non ha più senso. Come sopravvivere quando tutto va all'inverso, come sopravvivere, ricordi ancora impresso, come sopravvivere se tutto ciò che ho perso ha sommerso la ragione di chi non ha più senso. Come sopravvivere quando tutto va all'inverso, come sopravvivere, ricordi ancora impresso, come sopravvivere se tutto ciò che ho perso ha sommerso la ragione di chi non ha più senso. Come sopravvivere quando tutto va all'inverso, come sopravvivere, ricordi ancora impresso, come sopravvivere se tutto ciò che ho perso ha sommerso la ragione di chi non ha più senso.